Oh, cosa verrà a sé. Un esercito di prodi da me guidato. E la vittoria. E il plauso di venti tutta. Se hai da tornar di là un ricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Questa quella per me pari solo a guardare, tre intorno, intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non c'è, ma meglio dura che ad altra beltà. La costoro apparenza è quel dono di che il fato ne infiora la vita. So di questa mi torna granita, forse un'altra, forse un'altra, domanda sarà un'altra, forse un'altra, domanda sarà. La costanza tiranna del cuore, le testiamo quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va morno se non è libertà. Dei mariti il geloso furore, degli amanti le smania, delino, anco d'arco, c'è tocco di sfido, se mi pugge, una qualche beltà, se mi pugge, una qualche beltà. Thank you.

citar, mentre preso dal delirio, non so più quel che dico.

Tu m'appartieni, tu m'appartieni a me, a me. Thank you.